L'educazione da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Cesare e Leccardon, cani fratelli, da una razza venivano di cani famosi, arditi, valorosi e belli. Ma caduti per caso nelle mani di due padron, l'uno alla foresta passava i giorni in esercizi sani, l'altro, che invece tutto il giorno resta in cucina a mangiar, si sconcia tanto che quasi stenta a sollevar la testa. Leccardone il chiamavano pertanto, e il nome fu da un guattero trovato, che sul nome degli avi prese il vanto. L'altro cane fu Cesare chiamato, e fu d'aver coi cervi e coi cinghiali per entro i boschi un Cesare dannato. Per mantenerne i figli pregi eguali, il padrone gli scelse anche una sposa, che per bellezza non avea rivali. Leccardon si contenta d'ogni cosa che passa per la strada, e ne deriva una razza di cani vergognosa, che le fatiche volentieri schiva e si consuma a far girare gli spiedi, razza villana che non par che viva. Non sempre i figli san posare i piedi sopra l'orme dei padri, ma si oppone pigrizia, casi e tempi, onde tu vedi Cesare che diventa Leccardone. Fine della favola, L'educazione. Questa registrazione è di dominio pubblico.